gennaio del 1756 nasce Wolfgang Amadeus Mozart, compositore. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. E io adesso suono un po' di musica. Spettacolo, Claudio. Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Essere contenti è una ricchezza naturale, il lusso, una povertà artificiale.

cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. I colori sono come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni. Pablo Picasso. Sera, 27 gennaio 2007, ore 22. Officina emotiva con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale presso la discoteca Palladium, Trevignano Romano, Roma. Ci vediamo lì. Percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Mando la pubblicità. Questo è il cammino di me medesimo D'Agostino. Nello studio delle cause

legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado, gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. Robert Bach. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Musica allo stato puro. Ci vuole un bel po' di storia per spiegare la tradizione. Henry James. Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Oh,

Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Terra. Questo piccolo puntino sotto l'interrogativo. Stanislav Lec. La vita è più bella quando suona la campanella. Purezza di mente e pigrizia sono incompatibili. Gandhi. We'll be right back. 27 gennaio 2007, Officina Emotiva, con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella Sala Sperimentale, presso la discoteca Palladium, Trevignano Romano, Roma. Come on. Cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Passeggiare ovunque. Mi piace pasticciare con i miei colori anche fuori dal foglio. Mi piace esagerare, rischiando di capire chi sono. D'Agostino. Una musica infinita che racconta la vita. domani è domenica e quindi ci sentiamo lunedì. Grazie.